Ebbene sì, Nothing to Say cantavano nel lontano 1970 i Jethro Tull. Questo è un altro dei pezzi, un altro dei motivi che stimoleranno la memoria di Bernardo Lanzetti, che ci ha appena regalato una ottima performance dal vivo qui con semplice chitarra acustica e voce, a dimostrazione appunto di quanto sia un grandissimo cantante, un grandissimo interprete. E allora torniamo a parlare, Bernardo, perché sono le ultime battute prima che tu debba insomma ci debba lasciare per altri impegni. Poi leggiamo anche i messaggi che arrivano al 335-1007-777 dagli amici che ci stanno ascoltando. Allora, perché ho scelto i Jethro Tull del 1970? Questo lo indovino, questo è facile. Perché Clive Bunker, il mitico batterista, ha suonato nel mio album precedente Gente Nervosa. La gente lo chiama Generazione Nucleare, anche esatto, se si chiamava Bernardo Lanzetti, ma soprattutto ha fatto la tournée italiana con la Steam Band, dove c'era John Perry, dove c'era... che era dei Caravan. Esatto, esatto. Poi c'era Diesel Martin e poi Jackie McCauley, perché Steve Simpson era impegnato con Roger Chapman, non aveva potuto venire. Ecco, quindi il respiro internazionale nel momento in cui tu, nel dopo PFM, praticamente intraprendi questa carriera solista che inizia proprio nel 79 circa, no? E poi proprio suoni con gli strumentisti inglesi, tra cui Clive Bunker. Lavoravamo negli studi di Vangelis, e Vangelis ogni tanto ci chiedeva di sospendere perché doveva fare qualcosa, e guardava, scriveva musica da film per questo film dove c'erano questi che correvano in mutande sulla spiaggia, e dicevo: ma che cosa sta qua a perdere tempo? Beh, era Momenti di Gloria, col quale ha vinto l'Oscar. infatti hai menzionato un altro grande genio, diciamo, della musica. Va bene, allora passiamo al volo ai messaggi. Il primo che salutiamo è Max Murdoch, che dice: ragazzi, starei tutta la notte a sentirvi parlare di progressive italiano, che è un argomento di cui so così poco e che mi affascina così tanto. Complimenti, grazie a te, buon gustaio, hai scelto la trasmissione giusta come al solito. Baci anche all'amica Roberta, che dice: che serata, commentando riguardo alla vocalità di Chapman, dice: that's me in From Genesis to Revelation è cantata alla Chapman, quindi esatto, avallando un po' la mia teoria che Chapman è anche l'ispiratore di Peter Gabriel. Poi un amico da Milano, Andrea, che ti saluta personalmente, si dichiara amico appunto di un tuo ex collaboratore probabilmente, sì, esatto, e poi sostiene di avere il disco Gente Nervosa, che questa sera abbiamo menzionato, esatto. Altri saluti a Rosario 76, che dice: grandissimo, mi inchino di fronte alla perizia vocale del Lanzetti. E fai bene, perché appunto poi se ascolterai bene questo nuovo lavoro ne avrai veramente motivo, perché ci sono delle cose incredibili. Ci siamo limitati ad ascoltare un paio di pezzi, dopo in chiusura ne ascolteremo un altro, ma vi garantisco che ce n'è veramente per tutti i gusti. Poi abbiamo Giuseppe 66, che dice: voi siete matti, una cosa così dal vivo neanche su MTV. Vabbè, cioè, su MTV non capita spesso di avere grandi artisti così, eh? Poi un altro amico da Pisa, Francesco, dice: se puoi svelare qualche aneddoto a proposito dell'influenza che hanno avuto i King Crimson nella tua vita artistica, sempre che ci sia, insomma. Sì, beh, soprattutto nell'epoca in cui cantava John Wetton. E esatto, c'erano questi terzo periodo, perché sì, il primo, diciamo, cantante fu Lake, poi esatto, ci fu Haskell e poi entrò Wetton. Sì, con Wetton entravano queste atmosfere un po' glaciali o oscure, che mi hanno molto influenzato per un certo tipo di arpeggio, per un certo tipo, insomma, di mondo oscuro. Quindi il tuo periodo preferito dei Crimson è quello lì, quello degli anni 70, per Red, diciamo, esatto, Lark Stone, Gillespie. Sì, esatto, bravo. E non è un caso che il primo brano di apertura del mio album ricorda abbastanza il mondo dei King Crimson, come certi accostamenti. Parliamo di eclettica. Esatto. Tra l'altro c'è una cosa che tu non sai, perché tu vivi in un luogo non raggiunto dalle frequenze di Rock FM, ma eclettica è il titolo di uno storico programma di Rock FM che va in onda quotidianamente da 15 anni su Rock FM, che conduce un amico. Infatti gliela farò sentire, gliela presterò e magari te la passa anche lui. Eclettica. Va bene, allora tra poco ascoltiamo un altro pezzo, però l'ultima menzione arriva da un amico anonimo che... ci scrive un frammento di testo della PFM da Passepartout, scrivendo svita la vita, cura la tua ferita, la regressione regredirà. Quindi tutta questa somma di allitterazioni che scrivevi, sì. Tu i testi lì, questo è un testo di Bussida. No, di Manfredi. Ah, di Gianfranco Manfredi. Sì, nell'album Passepartout fu chiamato lui, io firmai solo il brano che si chiamava Fantalità, che era un altro nonsense, sì. Ispirato un po' anche allo stile di Manfredi. Pieno di allitterazioni, quindi giochi di parole. Esatto. Va bene, allora un ultimo brano che selezioniamo dall'album Eclectic Lands, nei negozi oppure reperibile su btf.it, questo disco straordinario appena uscito di Bernardo, e abbiamo scelto insieme questa volta Spiky Faith, dico bene? Spiky Faith, sì. Ne parliamo subito e poi dopo diamo velocemente. Allora, in questo disco io canto in varie lingue, compreso il greco antico. Esatto, bravo, hai fatto bene a ricordarlo, francese, inglese, italiano, spagnolo e greco antico. Più che spagnolo, Spanglish, questo misto. Sì, un misto. Allora sembrava che poi un'operazione un po' troppo culturale, allora ho introdotto un nonsense, Spiky Fate, questo personaggio inventato, un po' erotico, un po' distaccato, che aiuta nei momenti difficili, quando devi andare a correre a spegnere il fuoco per ricominciare da capo, ecco, c'è Spiky Fate che ti sorride, che è il punto che di, dà la forza. Un punto di riferimento immaginario. Esatto. Allora ascoltiamo il brano. Mikey Faith, un altro estratto da questo ottimo disco Eclectic Lands che stasera abbiamo in qualche modo cercato di presentare insieme al suo protagonista, ossia Bernardo Lanzetti, che io voglio ringraziare, ma prima di salutare voglio che insomma dica le ultime cose relative alla sua attività, perché insomma non capita tutti i giorni di averlo qui ospite a Rock FM. Prima, se mi consenti Bernardo, un po' di saluti ancora agli amici che scrivono da casa, come l'amico Kattivik, che fa una sua piccola recensione a questo momento con te in radio, dice: già il mini accenno a The Pusher era stato gustosissimo. Harry Kane, non ti dico poi gli aneddoti con PFM e Roger Chapman, insomma, come al solito, la cultura straborda. Ciao Mox e ciao Bernardo, grazie Kattivik delle tue approvazioni, sempre gradite. Poi Pista mi fa una domanda relativa ai Can, insomma le digressioni sui gruppi sono sempre soggette a disquisizione, per cui abbi pazienza. E a proposito di pazienza, un altro amico scrive: copertina del grande Andrea Pazienza, e parlo ovviamente di Passepartout della PFM, che è l'ultimo album in cui hai cantato. Germano da Firenze invece è contento di averti praticamente conosciuto grazie a questa trasmissione, dice: la seconda volta che lo sento e mi scavalca tutta la mia discografia personale. Bene, bene, vuol dire che ha già assistito a delle tue performance. Poi, buonasera a te, alla voce più bella d'Italia secondo rivista dell'epoca 80. Qual era questa rivista? Chi ti definì così? Dunque, popster, aspetta. Rockstar, ciao 2001. Fare musica. Bene. Indovinata anche questa. Poi, chi abbiamo? Abbiamo Nico 93, 14enne, quindi cresce assolutamente bene, grande fan del Progressive, che adora gli Are, ovviamente, il Banco, EPFM, e King Crimson, e le Orme, insomma c'è l'elenco di tutti i grandi. Quindi sei sicuramente felice che ci sia Bernardo Lanzetti in questo momento a Easy Rider, che è un programma che si occupa molto in maniera approfondita di questo tipo di musica, quindi grazie della tua testimonianza. Allora Bernardo, io ci terrei a dare ancora quelli che sono i tuoi contatti, sostanzialmente i siti di riferimento per quanto riguarda la tua attività, quindi certo, il sito tuo, eventualmente quello della band Mangala Valley. Sì, allora la Mangala Valley sono rintracciabili, hanno il loro sito, sono su MySpace, su YouTube ci sono dei video anche di Bernardo Lanzetti, ci sono delle interviste a una TV americana del 79, molto, molto interessanti. Poi c'è l'altro mio gruppo che si chiama Extra, con cui faccio brani anni 60, anni 70. Di cui questa sera non abbiamo ascoltato niente, ecco, perché abbiamo tralasciato un po' di cose ovviamente. Sì. Poi ci sono anche le cose del teatro, esatto, che ho fatto sia col Teatro di Milano che con i teatri di Parma. Così. Però sul tuo sito e il mio sito comunque ci sono. Ci sono tutte le informazioni, bernardolanzettifansclub.com. Chi ha il CD può accedere con la password a Eclectic Lands. Poi ci sono anche nel mio sito tutti i quadri che faccio, ci sono molti nudi femminili, per cui prego, ecco, ci si può divertire. Non abbiamo accennato a quest'altro tuo aspetto artistico, ovviamente qua siamo in radio, non si possono vedere le cose, a parte chi ha internet ovviamente, però tu oltre che cantante insomma sei artista a 360 gradi e appunto ti diletti nella grafica, nel dipingere, anche questa sì, forma artistica, dico bene? Sì, benissimo. Va bene, allora i siti, poi eventualmente se tu suonerai dal vivo, se avrai occasione, sul sito appunto bernardolanzettifanclub.com. Sì, ci sono alcuni concerti dei Mangala Valleys in progetto qua nel nord Italia, quindi se qualcuno va nel sito dei Mangala Valleys trova senz'altro le informazioni. Poi sono a Parma il giorno 20 giugno nel Festival della Poesia, dove faccio degli interventi vocali su un poema che si chiama Onirico Geologico del poeta ed arpista Francesco Benozzo, che è un italiano ma è diventato un luminare per quanto riguarda la musica celtica e soprattutto del Galles, e infatti ha preso dei premi a Edimburgo. Questo è molto particolare. Ha scritto questo poema ritirandosi per 3 giorni e 3 notti sugli Appennini del Modenese. Insomma, lo facciamo rientrare comunque nella fuga di cervelli dall'Italia. Va bene, Bernardo, io ti ringrazio di essere stato in extremis, perché come ben sai la radio è in procinto di abbandonare l'etere, e quindi io sono felice di annoverarti nell'eletta schiera degli ospiti di Easy Rider come testimone di di qualche decennio di grande musica prodotta anche in Italia. Quindi ricordo ancora a tutti il tuo nuovo album Eclectic Lands, avremo ancora occasione di sentirlo, però insomma grazie per essere stato a Easy Rider. Grazie a voi. Ciao allora. Ciao. Maha. Superman. Sex machine. E a proposito di grande progressive italiano, ecco ricomparire il Jimi Hendrix italiano dalla città di Genova, Bambi Fossati ovviamente, questo era l'album d'esordio di Garibaldi, Nuda, altra copertina strepitosa. Nel frattempo ho accompagnato il grande Bernardo che ci ha intrattenuto con perle di saggezza ma soprattutto di grande musica questa sera qui a Easy Rider. Io sono molto contento insomma di annoverare nel lunghissimo elenco di personaggi che ho avuto l'onore di ospitare qui a Rock FM anche lui che vi ripeto adesso ve lo posso dire ancora di più col fatto che non è più di fronte a me, ma ha una vocalità veramente straordinaria. Il nuovo disco, quando l'ho sentito non ci credevo, dice un uomo di 60 anni che canta esprimendosi a questi livelli, ci sono dei momenti che sembra veramente un tenore. Va bene, allora riprendiamo in mano i vostri messaggi e salutiamo. Si dice che prima della fine si ripensi a tutta la vita. La vostra programmazione di quest'oggi sembra confermarlo. Dice: io sono Rock FM fino all'ultimo. Viva Rock FM! E poi un altro amico genovese, non a caso, dice: Bambi, dove lo sentiremo? E poi un'imprecazione irripetibile. Va bene, poi un altro ringrazia, un altro amico Q, sempre da Genova. È contento anche lui di sentire i Garibaldi. Io nel frattempo ho preparato qualcosa di drasticamente diverso. Questa sera ancora non avevamo sentito nulla di metallo, d'altronde dopo la boffata di venerdì di 6 ore dalle 12, dalla mezzanotte alle 6 insieme a Garavelli e De Rio, insomma per il metallo ne abbiamo avuto abbastanza. E invece no, invece andiamo a rispolverare questo disco degli anni 80, 1987 se non vado errato. License to Kill era il secondo album di questa formazione che avrebbe dovuto suonare come supporto agli Slayer nella loro prima data italiana. In realtà la cosa non si verificò per un problema al cantante. E allora io oggi ve li faccio ritrovare. Sinister Double, questi erano i Melis. We'll be right back. Licenza di uccidere per i Malice, License to Kill, seconda metà degli anni Ottanta, un ottimo album, un ottimo esempio di quello che era una piega tra l'hard rock e l'heavy metal che, ripeto, per un caso totalmente di sfortuna non poterono suonare di spalla agli Slayer. D'altronde forse erano un po' fuori target e quella sera furono sostituiti degnamente da una band molto più simile agli Slayer, cioè i Nostrani Extrema, che nell'87 insomma erano ancora dei giovinetti. Va bene, allora io voglio ringraziare chi continua a scrivere. Ovviamente Andre dice non siamo mai sazi di metallo, caro Mox, grande gruppo i Melis. Bene, contento sempre della vostra approvazione. Io ora voglio svoltare ancora una volta con il genere, visto che di prog italiano ne abbiamo avuto parecchio, ma non solo prog, perché abbiamo notato l'eclettismo non a caso del grande Bernardo. Il prossimo pezzo invece è di un altro amico che è passato da questi studi, un ragazzo newyorkese, un 31enne quest'anno, visto che è nato nel 77, si chiama Joe Bonamassa. Il suo ultimo album è uscito proprio lo scorso agosto, l'abbiamo presentato in quell'occasione. Io ho scelto un brano particolare, un brano dal sapore drasticamente etnico, infatti non a caso si intitola India e richiama proprio le sonorità orientali. Peccato che lui sia uno straordinario chitarrista acustico di estrazione ovviamente blues, chi lo conosce lo sa, e allora si crea questa magia, questo connubio, questo incrocio di culture, di attitudini tra Oriente e Occidente. Quindi Joe Bonamassa da New York, come intuibile dal cognome italo-americano, che suona questo brano che si intitola India e che adesso io vi faccio ascoltare. Nel frattempo, a proposito di grande musica acustica, si sta girando già per gli studi il mio successore della notte, ossia il Maurizio Faulisi, in compagnia ovviamente del Metius, come si dice qui a Milano. Anche loro avranno ospiti, ormai si sa, qui a Rock FM è una girandola continua di grandi ospiti, grandi musicisti che si alternano e ci regalano grandi emozioni con i loro strumenti. E allora, così ha fatto anche Bonamassa, anche se era un disco, però vi ricordo è stato ospite proprio qui e ha suonato direttamente live con Fabio Treves all'armonica. E mi ricordo, io ogni tanto percuotevo il tavolo a tempo, giusto, perché ero in mancanza del mio fido rullante. Va bene, allora io voglio continuare a tributare per gli ultimi minuti la musica, allora sto preparando altri classici, brani che avrei potuto anche mettere venerdì sera, ma per motivi di tempo e per lasciare un po' di spazio alla mia sapiente ed apprezzata redazione, quindi gli amici Filippo e Serena, che peraltro vi ringraziano molto. Poi sono arrivati dei messaggi anche a posteriori riguardanti insomma l'apprezzamento sul loro operato globale qui all'interno di questo contenitore che si chiama Easy Rider. E allora, dicevo, il prossimo pezzo ci porta in Olanda, quindi abbandoniamo nuovamente New York e andiamo in Olanda con un classico, un brano del 71, sono le Navi di Argento, loro si chiamavano Golden Earring o Earring, la pronuncia corretta in questo momento mi sfugge, ma mi fa specie che nel nome del gruppo ci sia l'oro e nel titolo della canzone ci sia l'argento, insomma una band fedele ai metalli preziosi. 1971, Silver Ships, loro sono i Golden Earring. I know it falls. speeding fast. And don't you know it watched us for a thousand years? And don't you know we'll die at last? No solution. Un incedere decisamente Pink Floydiano, che richiama un po' Echoes, ma con degli inserti di flauto e una parte vocale. Veramente strepitosa, molto molto orgoglioso di trasmettervi questa bella musica olandese, 1971, ricordiamoli, Golden Earring, e poi insomma orgoglioso anche di farvi condividere il fascino del fruscio del vinile, visto che questa trasmissione si fa vanto di usare ancora, proprio come negli amatissimi anni 70, il vinile nelle radio, cosa ormai più unica che rara, oserei dire. Diamo gli sgoccioli, io vi offro, vi regalo ancora un ultimo frammento strumentale. Voglio ringraziare di cuore chi scrive ancora al 335-100-7777 facendo dei complimenti veramente da lacrima, come Tale da Firenze, che insomma fa un bel complimento alla mia voce, ma non come pensate voi, in realtà è qualcosa di molto più mistico, ma veramente grazie. E poi anche l'amica Camarilla, che giustamente fa riferimento a quanto impara ascoltando Easy Rider, e questo è un'altra grande soddisfazione. Allora, il prossimo pezzo invece ci fa commemorare uno dei più grandi tastieristi della storia, ai noi scomparso proprio l'anno scorso, Joe Zawinul. Ricordiamo, l'ultimo concerto della sua vita l'ha tenuto proprio d'estate in quel di Lugano, dopodiché a causa di una malattia è scomparso. E allora rispolveriamo questo classico della storia dei Weather Report, Birdland del 1979, del quale vi farò ascoltare solo una parte, un frammento, perché ho alle porte il Matthews e il Faulisi che spingono. E allora, questi sono i Weather Report. Third Land per concludere, la usiamo quasi come sigla della puntata odierna di Easy Rider. Siamo agli sgoccioli, in realtà sono le 23.01. Ho già dietro le spalle i due loschi figuri che vi ho menzionato prima, quelli che vi intratterranno ancora fino alla mezzanotte di oggi. Noi ci risentiamo domani, domani sarà una puntata libera da ospiti, ma mercoledì ci sarà un altro ospite, ci sarà Nada che verrà a trovarmi e con la quale scambieremo un po' di piacevoli chiacchiere. Allora io vi saluto, vi auguro la buonanotte, vi lascio con come potrei definirvi? I due garageros, vabbè. Allora dopo vi do anche le chiavi, mi parcheggiate anche l'auto, va bene, è il momento di Garage Land, da parte di Mox è tutto, vi lascio con l'abbraccio circolare e abbasso la base e metto la mia sigla. È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi, voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarvi o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.